tolti ovunque alle pareti, e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino, tiene più deciso il cielo ed il panorama. Troppo brusco il cameriere, e glielo fai sapere, non è quello di una volta, ma dai, non è così importante che sia tutto uguale. Mentre dici come cambiano le cose, in quell'attimo sei già cambiata tu. E se sei tutte quante queste donne insieme, non si può sbagliare, non si può sbagliare. Qualcuno suona una canzone senza tempo, e Roma sembra funzionare già di più. C'è solo albergo in cui tornare, qualche ricordo da rischiare. Io sono un po' nervoso e tu rimani tu. Che cantichi una canzone senza tempo, come se il tempo rimanesse fermo qui, qui dove tieni gli occhi chiusi e tieni aperte le sorprese, e non c'è niente che sia meglio di così. Il tassista maledice le famose buche, qualche autobus va a fuoco, ma da sopra Monte Mario, guarda che presepio. Fai la voce da bambina in un orecchio e mi anticipi che cosa vuoi da me. Se sei tutte quante queste donne insieme, non si può sbagliare, non si può sbagliare. Qualcuno suona una canzone senza tempo, e Roma che ci tiene dentro più che mai. Lo stesso albergo in cui tornare, e quei ricordi da rischiare. Io sono un po' nervoso e tu sai come sei. E siamo dentro una canzone senza tempo, come se il tempo rimanesse fermo qui. Nella città che non finisce, c'è qualche bacio che guarisce, e non c'è niente che sia meglio di così. E non c'è niente che sia meglio di così. E non c'è niente che sia meglio di così.